quando ti serve un'assicurazione, dillo a me che ti porto da un carissimo amico mio. Ti tratta bene, Fregatene, te lo sto garantendo. Io già sto ben attento alla macchina, va, ho fatto una cazzatina una volta un signore, per carità, va. Vabbè, assicurazione, sì, avevo fatto l'assicurazione, il danno era 200 euro, solo che lui la voleva portare al suo meccanico, la portava al carrozziere, lo pago io, no, la porto al mio, allora poi alla fine mi ha rotto, ma poi ho fatto una cazzatina, uscendo da lì, da dove facevo la frutta e verdura, latte dolce, vicino a Mar Domenico. Stavo facendo, non c'era a casa, io ce l'avevo scritto che non c'era, stavo uscendo, cazzo, mi ho trovato lì a Palapra, gli ho mancato neanche, come si dice, gli ho Palapra raschiato. Ciao Giulio. Si va con la pasta abrasiva, poco a poco si è ammaccato, ma poco a poco, e ho dovuto fare l'assicurazione, se no io mi ho chiuso, com'è cutto, in 21 anni faccio la patente. Ciao Massimiliano. Scusa, ciao, se non ti saluta. Avanti Claudio. Vabbè, dai, arrivo subito. Io già ti ho registrato già da poco, anzi oggi, non ti preoccupare. Ciao Massimiliano, mi pare che Giulio abbia chiuso. Giulio? No, non ho chiuso, siccome c'era un passaggio abbastanza lungo, secondo me è norma che prima, uno, quando uno va via, di fare il giro per salutare. Io ho voluto salutare sulla modulazione a Massimiliano, spero che mi abbia ascoltato, tutto lì. Ciao Eugenio, avanti, dai, non ti lamentare, che già ti vogliamo bene. Ciao Eugenio, salutoni. Ti mando avanti Luca, per Eugenio. Ma Luca mi sembra si sia sentato un attimo. Ciao Eugenio, buonasera, ben ascoltato. No, io già ti ho sentito, non c'è nessun problema, già c'era il bianco. Avanti Antonio, riprendi. Capa, scusate, ma ho fatto io un po' di casino, vi chiedo scusa. Non c'è problema, tu fregate, può succedere, non c'è problema. Ti ha accennato mai, gli hai fatto impresa? E cosa ci vuole? Vabbè, quello sì, tu pure hai ragione, se vuole veloce, ma va bene. Luca si è sentato e fra un po' mi ancora un paio di passaggi, pure anch'io devo chiudere, sono già le 8 e 5 minuti, per cui sicuramente stanno già apparecchiando giù. Avanti Claudio. Capa, nessuno vuole entrare, molto bene, ok, e anch'io un paio di passaggi poi chiudo perché ho già fame. Ok, avanti oggi. Ma lo posso immaginare, pure quel lavoro, no? Le bucce giocano sempre alla zeffara, ganza, lui. Va bene, dai, genio, già sei giovane ancora, lui, avanti Giulio. Lo so, certo che uno che dalle 4 fino a quest'ora, insomma, non è semplice, è chiaro che una persona si stanca. Purtroppo è così oggi, siamo nati per soffrire, i lavoratori sono nati per soffrire, soprattutto per la bagnotta. Vai oggi. È così, chiaro grillo, una volta raggiunta quello scopo è chiaro che non ci deve andare più, che te lo base va. Va bene, dai, signori belli, io vi ringrazio per la chiacchieratina. Le 8 e 7 minuti scendo giù per la cena, dai. Ciao Eugenio, ciao Claudio, Luca se sia ancora all'ascolto, Gianni se sia ancora all'ascolto, salutoni a tutti, e anche Massimiliano se sia all'ascolto, salutoni a tutti, ascolto finale e poi chiudo. Avanti Claudio. Riprendo io, salutoni Giulio, ce la recitiamo al prossimine. Buonati cla. Scusa Antonio, non mi sono dimenticato di salutarti, ciao a tu, alle prossime, ciao, chiudo. Avanti Eugenio. Sta facendo abbastanza il radio oggi, io ti sento basso, neanche di segnale, abbastanza basso, sei intorno ai 6 di segnale. Come mai? 6 ce l'ha, 7 di segnale, non si, 7, non lo so, io ti sento, è il livello del volume è sempre quello, però hai sei stanco, hai una voce stanca praticamente. Cosa stai usando? Gara, sì? Vabbè, forse vorrà aperto un pochino, perché mi sembra un po' chiuso di radio, mi sembra, dai. Va bene, dai, ti saluto, ciao Gigi. a salutare, ciao Antonio, ciao Claudio, chiudo, ciao, stai a tu. Cappa, sto mandando un messaggio, vai i zendi giù. Ho detto che sto chiudendo, no, stavo ascoltando Eugenio, mi ha chiesto come lo sentivo basso del radio, per me la radio è chiusa, quando la radio è chiusa bisognerebbe aprire un pochino la LC, perché ho perlomeno cambiare il microfono, non lo so, non ha una grandissima radio, non era certamente come il 3009 che avevi prima, Eugenio, tutto lì, vabbè dai, questo è un confronto che adesso ho voluto fare io pensando a prima e pensando adesso. Ci sentiamo, comunque andare si va, dovrebbe andare bene, non c'è problema, è rimediabile, Luigi. Alle prossime, ciao, chiudo veramente questa volta, ciao, vai Luigi. Già ci sono, ciao, guarda ti ho mandato un audio anche. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato, alle prossime, dai, avanti Antu. Cappa, salutoni Giulio, ce la risentiamo alle prossimine, ciao ciao. Non riuscivo a sentire tanto bene Eugenio stasera, forse adesso come ha cambiato un po' meglio. Guardo, ma se lo vedi, lo volo mai bascio. Lui che magari non riuscivo a uscire forte, però adesso già lo sento un po'. Ma come fate a dire che non sto uscendo se mi arriva Santiago 9 a me Radio 5 con Galaxy? Santiago 9. Ho claro, a me Santiago 9 non mi arrivi in ovvi. Allora se c'è il segnale basso, che tu lo senti in basso, automaticamente lo senti in basso anche del radio, Antonio, cosa vuoi ti dico? Qua arriva Santiago 9 con picchi positivi a 9 più 5, non è mai arrivato così. Io quello che ve lo dico, non è che posso dire il contrario. Santiago 9 con picchi a 9 e 5 e la radio 5 è perfetta. Capito? Non so. No, l'ultimo passaggio che ha fatto andava bene. Avevi toccato qualcosa oggi? Se vuoi ti registro e ti faccio sentire come arrivi, non se vuoi ti richia. C'hai dei picchi di modulazione belli alti e il segnale è 9. La radio è 5. Più di quello non è che puoi pompano. Mickey King sempre al massimo. Ah, vabbè. Per me va bene, io ti ascolto magnificamente bene. Non potentissimo, te l'ho detto, non potentissimo, però la radio va bene, chiara, pulita, abbastanza bella, a me piace. Avanti a tu. Capo, no, ora lo sento, nei primi passaggi che aveva fatto, non mi andava tanto bene, ora però lo sento. La radio qua, sta uscendo come stai uscendo tu, è che tu gridi, invece lui non grida, però la stessa timbre che avete, uguale, precisa identica. Io non è che grido, ma giù la voce ascia. Per me quello che tu dici che grido per me è normale, capito? Lo so, ma Eugenio parla piano piano, così come sto parlando io non grido. Assolutamente, io parlo normale, però spingo bene, quindi il microfono va, capito? Tutto qui. Lui già lo conosco, parla tranquillo, non è di chi si buona a bordo, c'ha la voce alta, parla molto pancato lui, capito? Avanti oggi. Appunto, automaticamente quando c'è segnale basso ti porti magari lo strascico del QRM appresso e la modulazione non è forte, ma io che ti sento con un segnale alto, la modulazione va bene, cappa, la voglia che va bene. Ok, dai ragazzi, io vi saluto e vado a cenare, ok? Anzi, ancora non è pronto, ma comunque mi devo spostare. Se ci siedo, pronto a dopo, ciao Luigi, alle prossimine e ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, ciao ciao. Ehi, ciao Antone, cla, ci sentiamo. Cappa. Adesso quando metterò un altro pezzo di palo, vedi che ne risolvo il problema. Non dovrei avere più problemi per Porto Torres. Si conferma, sicuramente sì. Vabbè, già lo facciamo quel lavoro, dai. Ok. Comunque sto andando con Savelta io, Antone, non sto andando col Tranne più 3. Savelta Master Plus e Galaxy. Non andare. Va bene come radio, no? Certo. Ok, non mi hai detto niente, pensavo mantenere accorto. Sto usando il Savelta anch'io. Ciao Eugenio, ti ripasso un cambio, ascolto il finale e poi chiudo. Ciao ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo. Buonasera, dai. ci sentiamo dopo, più tardi. Anche io mi vado a fare, vado a cenare, sto qua a pezzi. Sono veramente a pezzi. Ciao ragazzi, ciao Alto, ci sentiamo più tardi se ce la faccio. Ciao. E cosa hai fatto? Questo passaggio magnifico. Cosa ho fatto? Questo passaggio ti sento perfettamente bene. Cosa cavolo hai combinato? Niente, niente, non ho toccato niente. Assolutamente niente. Magari sta scaldando un po' di più la radio, capito? Scappa, sei qua, adesso c'è una bomba, sei. C'è una gannonata in occhio. Sta scaldando la radio, dai. Sicuramente sta. Sì. Sta scaldando perché prima i fax non me li segnava tutti, adesso li sta segnando tutti, dai. Minchia! Adesso sì che sei un genio! Adesso ti sento magnificamente bene! Non ti ho mai sentito così, eh! Certo, so come scalda la radio! Come scalda la radio, un po' di più! Provocula hai fatto, no? Cosa? Provocula hai fatto, la mazza di nevai! No, non vero, non ti tocca di nulla, ma tu vuoi già bugia, ma se no... Ciao, non lo so, io non tocco niente, ho paura di toccare questa radio, è troppo delicata. Allora, ciao Antruda, giusto un passaggio così al volo, giusto per farti capire. Appena sei entrato da 6 a picche di 8, adesso sì, da 9 a 9 e 10, la mazza di Nivari. No, Duca Duda, io sono tipo di un pago quindi, ma Duca di niente, zero. Perché adesso sta scaldando la radio, no? Ok, dai, giusto per farti capire il segnale come era qua. Fatto il corso con il Galaxy e di Santiago 8, adesso sì, 9 a picchi di 9 e 10. E ottima radio. Va bene, dai, ci sentiamo. Mia radio, grazie. Tu devi sempre ringraziare a Gesù Bambino. Quando vai a sotto ti do un bacio in bocca, dai. Va bene, dai. Ci sentiamo ragazzi che vado a cenare. A più tardi, ciao. Sempre se le porte che non mi si chiudono prima. Ciao. Ciao, ciao Rogi. Ciao Antu, ci sentiamo, dai. Ciao, ciao Massimiliano. Ah, finalmente senta un genio bene. Ah, che bella cosa. Va bene, grazie Antu, dai. Ci sentiamo più tardi, ok? Ciao. Vado a farmo per le mandibole. Ciao. Non oso pensare in FM com'è. Ma boh, non lo so perché ce l'ho 3 giorni questo apparato, non lo conosco. E non mi dici Luca Nuba chi troppi tassi ci sono. Ancora devo conoscere bene. Sì, io già lo conosco, non ti preoccupare. Va bene, dai, ci sentiamo più tardi. Ciao. Ciao, ciao. Subito da fare a volte via quello è pianto se no casino. Sto provando per 4:30 non va dentro i vatti già stanno andando là 10 vatti modulati 20 e cappa io c'ho lo strumento attaccato e che cosa in più è io ce l'ho in scala 10 che l'importante butta 10 watt in scala 100 ecco qua e 20-25 watt non di più ma l'importante è 10 watt e capo e anche a me la mazza di varia. Questo non spinge più di tanto, è stato regolato così, va bene, almeno a me non lo sfrutta molto, dai, c'è un casino. Quello anche abbassato l'occa, se no, no non va bene. Ma comunque intorno, dai, sarà blu. Se fischi andai più, ma adesso che come sto parlando 60 così. Ehi no, questo è misero, ma già va bene, dai, non c'è problema. Sempre una porta accenata. KK, dai. E me lo segna anche lo strumento, me lo segna. Ammazza che te ne vari, anche. Non credia che era così preciso. Che culo! E per forza è preciso, se è stato fatto, una volta che la radio è a posto, è così. Distrazionale, non è uno. No, io ho attaccato lo strumento esterno per vedere. C'era giusto, vabbè, perfetto, dai, già va bene. La radio è buona? Buona, buona, anche io uno a uno, ma così muove la cosa, cioè. Perfetto. No, c'ho il ZG attaccato c'ho adesso. Lo strumento. Cavolo, no, dico, ha avuto il culo su quel tipo di strumento lì che funziona benissimo. Ah, ho capito, ho capito. Andare, già va bene, KK. Beh, come vedete si è lamentata, si è capito. Dice che non andavano bene. Meno male che quello che ho preso io va bene. Ti devo dire che va bene, se no te lo posso brumare. Tu lo prendi, te lo posso brumare, mi dice Antonio, avevi ragione. Ha avuto fortuna, ha avuto. KK. Ehi, già va bene, non c'è problema. C'era il bombomato, la radio. Ora. Ma sei sicuro che la radio va bene? Sì. Ah, cannonata, Bella, forte? Sì. Non sei contento? Poi pari una bedivella, c'ha la radio. Cosa, la bedivella? Non va bene? Ma non comincia molto il picchio, non è molto forte come prima, vabbè che l'ha regolata il laboratorio, mi sa che rimane una bassa lega cervite. Ah va bene, una tanzuna, una canonazza, puntella, puntamone un po' di giodi, un coso, una berivella, buone un coso, un elastico, una molla di cavadetto. Asco, ti tiro su il micchichino a vedere, guarda, lo porto appena appena più alto, troppo potente così è. Ah, va bene, è la solita tua modulazione, la tua solita modulazione di, non so, di 30 anni fa. Sempre quella, va. Qui c'è una scala, accento, va bene. Ora. Ehi, già fischia, già va bene. Kappa, che lo sai, gra, che da voi che ha caciuto chi sa radio? A tempo che arrivi a me, Eugenio e Oghi. Ma lo sentivo che era una meraviglia, lo sentivo, dopo di un bel po'. Adesso è come ha scaldato la radio, cavolo quanto lo sentivo bene. Ma cioè, dovete capire che praticamente quando... Lo sapete, no? Però tu no, perché non ne hai mai avuto, ma Luca sì. Io ne ho avuto tanti di quei tipi di radio. Prima di uscire bene, la radio deve scaldare, non è come questa, io l'accendo, la lascio spenta a 50 watt, l'accendo e c'è a 50 watt, quella lì no, quella deve scaldare, capite? Ed è per quello che non è perfetta, però non è che stavo uscendo basso, stavo uscendo abbastanza bene. Kappa, chissà, mi sono capitato che cosa la guardi appena attesa, ma dopo già schirre già forte. Ehi, come questa, c'hanno la stessa cosa, 430 e 440 sono così, mentre invece 140 e 680 devono scaldare un po', capito, tutto lì, però già vanno bene. Kappa, ma dopo, uia! Dopo sì o no che andava forte, e allora per fare cose di accendite, piano piano e sempre andando. E teniamo modulazione, dopo non l'avevo mai sentito io così, eh. Si conferma. È una bella radio quella. Ho fatto un affare. Ormai c'è la radio nuova. Chiappa, ha fatto un affare, sì. Quando le faccio comprare io le radio sono nuove, non ve ne di problemi. Anche se io posso accettare un graffiettino, una cosa, però quando io ti dico prendila perché la radio internamente è nuova, non è mai stata toccata e va bene. Conviene prenderla, capito? Io ho l'esperienza, me la sono fatta così anche ascoltando gli altri che l'hanno fatta prima di me. Cappa. No, ma già capolo dopo quanto andava bene. Non l'ho mai inteso così io, Meno male. Riprendi Lucaria un attimino che stacco questo strumento. Che è bello di positivo che per oggi, dai, la cosa è bella, che è bello. Già vanno bene, detto, siamo tutti vicini, va. La cosa che non andava bene, io mi ricordo, cazzo, il mio primo baracchino, Lafayette, Texas. Cazzo, per carità. Buoni, 30 anni fa. Sono di più puro, per carità, mamma mia. Dovevo stare là, tu conta che avevo quanto vicino Silvia, le due Silvie, Roberto Bandito. Poi c'era, vabbè, anche che c'era qua in zona, vabbè. Dovevo stare al canale di loro perché non sentivo nessuno. Foramari. E io mi sbattevo un bel colpo quel baracchino, mamma mia, la Fayette di Texas, per carità, pucci. Ma magari era anche buono uscendo poi, alla fin fine. Ma mi dava tanti disigoipi, cioè mi annullavano le persone. Era prima che veniva il canale 30, canale 14, canale 15, canale 12, poi a 40. Era sempre in pieno Ugo sulla frequenza. Non ci potevi stare tutti assieme in una ruota. Prima bei tempi, bei tempi. Lo so, ma era troppo un casino puro. In questa zona mi hanno detto che ce n'erano parecchi. Tu quanti anni ci sei in frequenza? Un bel po' di anni lo stesso. Perché avevo ripreso, poi c'era mamma, qualche volta entravo io di nascosto. Un bel po' di anni, più di 20 anni. Stavo dicendo un attimo, mi stava prendendo una bicicletta elettrica pieghevole, però il patinante non carica, forse sia l'alimentatore o la batteria. Non carica? Ma cosa fa? Ma l'alimentatore accende? Non lo sanno, devo appuntamento a vederla, pieghevole, bella, l'hanno pagata 500 euro loro. Bisogna vedere perché se l'alimentatore di Nabizi, per basta misurarlo col tester, a 24, quanto, com'è, 24 o 36? La batteria 36 volt. Bisogna vedere cosa intendo che non funziona. Non è che tu rabboni e carica, bisogna lasciarla un bel po' di ore. Ma vorrei capire perché non carica, secondo me l'alimentatore è andato. Bisogna vedere. 150 euro la sta vendendo, l'hanno usata a poco e niente. Capa, se no devi aprire la batteria e cambiare le celle, guardare qui sono le bruciate. Si possono cambiare? Certo che sì. Non è tutta la batteria, intera? No, la apri, tappenti, devi guardare. Sono le vendono anche la Fusaromi. Non lo sapevo. Però ripeto, stavo prendendo la manopattina, ma mi ha detto che non ce la fa manca salire in piedi Umberto. Devi la parte, devi continuare in pinta. Ma io devi stare attento con la manopattina. Lo so. Non è che sia un bel pericoloso, ma l'ho fatto, no? Molto pericoloso. Poi come ti guida i noghi, baja e dai, adesso vediamo. Perché lo scooterino troppa assicurazione, cazzo, mi vale domani di 400 euro all'anno, o 6 mesi mi pare, forse 6 mesi, non mi ricordo. All'anno, no? 6 mesi. mese. O 4,50, adesso non mi ricordo bene bene bene. Per carità, va. Ma secondo te ne vale la candela? Ma contro de piccia. Infatti. Sì, vabbè, giusto per spostarti, magari. Come c'era sempre un tram, tram. Ero anni e anni non prendevo il tram. Più di 20 anni non prendevo il tram. Adesso lo sto prendendo spesso. Cazzo, mi costa. Ti costa perché non ti fai l'abbonamento? Se ti fai l'abbonamento non ti costa. Ma molte volte l'abbonamento, cioè, non lo uso, capito, tanto è così e isso. È capitato che l'avevo comprato, cazzo, l'ho usato poco e niente. Non so, è un bel casino a me. E che non lo posso fare manco annuale, cazzo, mi costa un patrimonio a me, mica va a girare l'Italia. Quanto curiare il maramotto, 400 euro, sotto avrei sentito lo zip, ma è andando. Perché? Per quale motto? Per cinquantino. Ma la mia? Eia, cantumuriane. Cosa vuol dire cantumuriane? Di assicurazione. Eia, 400. A che ti fa ruino? No, lo zippi no, ormai. Ormai non ce l'ho più, altro non mi interessa. Ciao, questo ragazzo, è stato felicissimo. Ma stavo andando 400. Più passaggio, l'ha levata 3,50, mi si è pagato 120 euro di passaggio, gli è venuta praticamente quasi 500 euro con la moto. Sì, con la mare. Pensa che non va manco un battentino. Senza patente no, cioè non ci può guidarmi. Ti fanno bello già, cioè non mi ricordo quante di multa. E per 2 anni non ne vuoi manco bigliarmi, a quanto mi risulta. Questo non lo so. Non te lo so dire. So proprio di Gesù, ma la vostra la sua, è intestata a lui. Capito? Qua ti volevo dire. Sto pensando 125, adesso vediamo. Wow. Fare 2 ore che va a pigliare della macchina e a tutti i dinni. La carta la moto. Lo so, tanto, ma d'estate la moto è utile. Io lo zippo lo usavo d'estate. Lo so, però. Uiuia. Diciamo che un po' me ne sono pentito, Sono sincero, me ne sono pentito. Vabbè. Non è isso il problema, mi sono comprato un'altra, non è isso. Stavo vedendo uno di zip nuovo di pacca, ma è nuovo, il modello nuovo con la 5, cioè il cerchio a 5 razze, è giallo, 700 euro stanno dando. Atta, e tu hai venduto una miseria. Questo qua è proprio nuovo, quanto è nuovo, ma nuovo di pacca, non so se è 13.000 o 1300 km, adesso non mi ricordo. Cata, ma un motore ci ha dovuto a nuovo. No, un motore originale, c'ha pochi chilometri. Si è tenuto in magazzino, capito? In garage. Cata. Ma nel capo sono molto che erano buone in quegli anni che l'avevamo fatta, erano un amore. Di che anno era il tuo? 92. Esso, ma ne ha avuto anche un altro, mi pare, vero? L'ha avuto 3-4 zip, ma ho avuto nero, poi un altro grigio, questo qua era rosso, l'ho fatto un bianco. Quello mi ho rubato lo stesso, 5 razzi, c'era nuovo con la moto, nuovo, amica tu, sai che era fiammante quello zip. Perfetta, accesso all'elettronico, era un gioiello, era. E me l'avevano rubato. 4 o 5 se non mi ricordo. Poi ho avuto il Garelli. Tu moto mai avuto ne hai? C'avevamo la Vespa noi. No, ma tu personalmente mai avuto ne hai moto? No. Mai, come mai? L'ho guidata ma non ne ho avuto. Perché ce l'aveva babbo. Allora, come prima moto ho avuto il Benelli, poi il Garelli, poi il sì. No, poi il ciao, poi il sì, mi sa due sì ho avuto. E anche qua me l'avevo rubato il sì. Cazzo, sì. si è cosa si può manipolare bastardo. Poi il Garelli e ce ne ha avuto là. Ce ne ha avuto e vabbè purtroppo c'è questa sì, mi avevo rubato la Pianerottolo il cane di mamma e l'ha chiuso con bocca sferza questa catena, l'hanno sollevato e sono portato via e nessuno ha sentito niente. Ma sì, l'avevi visto non dizia che la moto io non la dovevo abitare la cosa era un mezzo scasciato dizia. E chi lo diceva? Mio nonno. Di dove era? Che parola era un mezzo mancante, me. Loro dicono nel parlare suo in calurese dizia che era un mezzo scasciato. Non le dovevi appiccare a moto, che va un capumacco, mi dizia. E io me lo dico. Ira di Dio. Diceva mentre mio, mi dizia che era di cosa, di tritta la gulta. Ira di Dio, Claudio Ma. Ma sei proprio con un capo scasciato, E così mi diceva nonno, ma cosa mi vedia con la bicicletta, che allora è più macco da va. Cazzo, buon papà, che cosa male, ma cioè, quando ero ragazzino strisciavo a voce, cioè, adesso mi sono calmato, cioè, ma ero mancante, ero, non è distrampato, ci ho pigliato, e via, a te la moto no, non ti la via ma lo dico pure a papà tu, dizia, che sei scasciato, mi dizia. C'è un dialetto un bel particolare. Ci ha pagato. Guardami i picchi di modulazione col Galaxy. Sono positivi, sì. Sono positivi. Cappa. Lo strumento non ci vibra nulla. Lo strumento mi dà picchi negativi. Vabbè. No, sono così. La prima volta che l'ho fatto in gallura era una cosa allucinante. L'ho raccontato a un mio collega che praticamente mi avevano fregato, avevo fatto un affare, ma ricordo se era con una moto, con che cosa, mi avevano fregato. E mi ha detto, ira di Dio, cuprito Tani, cuprito. Ma oggi un reddito, che mi ha tappato, non mi ha tappato nessuno a me. Oh, Tani cuprito! Ragazzo di miseria, cuprito, ma cosa vuol dire? Che ti hanno fregato! Allora, ben pieso, allora, trombato, mi ti hanno trombato praticamente, Tani cuprito. Ah, Tani cuprito, ha detto Giureta. Questo poco sono strani, e se non fanno meritare la Maddalena, ciu ciu, sull'ultimo abbasso, calemo abbasso, ma gabbasso, non veneno gabbasso, non gabbasso, capito, a scendere, sull'ultimo diceva questo, sull'ultimo a Palau, no, sull'ultimo in Sardegna, chi diceva, quello ma nella Roja, sull'ultimo in Sardegna, scendiamo in Sardegna, ma Tani. Io non so che parlano così. Mio nonno era, cioè, quando si arrabbiava, era molto male, dici, buon grazie, poco si arrabbiava. Sì, era molto male, era molto male. Cazzo, sotto qui. No, ma Maddalena mi faceva la vita, per dire, io scendiamo in piazza, dai. Io calemo abbasso, vedi dai garage, dai parenti, i cari. No, mio nonno è stato lì a Cochina sera, anche mia nonna. Andava giocando in Mochidala, di zia. No, Ginzi, lo dicevano Ginzi. Santa Maria Quella ce l'ho guardato a Valle d'Oria, a Ginzi, ero Ginzi. Di Diane Ginzi, venne Ginzi, di Diane. Invece a te ti dicono venne a Ginzi, perché c'era la sorella di mia nonna. E poi proprio ti arrabbia a me. E siccome allora ero disgraziato, prendevo per il culo un bel. La prendevo un po' in giro. Due puntate pure due schintigiate mi dizia brutto bestio con la ciabatta io ridendo mi seguiva e glielo so e siccome io c'avevo qualcosa, adesso un pochettino mi è passato, va. Prima c'era sempre il biglietto di Baruguro, sempre sportendo, sai com'è? Ragazzino, c'avevo proprio, non c'avevo nel DNA, ce l'avremmo. E chi da si arrabbiava? E io lo so, sì. Anche quelli di Sedini parlavano così, tutta quella zona parla così, capito? Tutti sono così. Sì, io lo so già. E c'avevo mio zio, abitava lì a Sedini, era la moglie, era, cioè ancora già si trova, lui è morto. Era sedinese, cioè Edda era sedinesa, non so come parlano. Ah, è una brava gente, sono molto ospitali, ho fatto quegli anni lì, ho fatto Ogiro, vabbè, da Ogiro praticamente Nulvi, Tergo, Buzzi, Sedini, Laerro, Perfugas, vabbè, per andare più giù, ma quando ero nel portabilizzato in depurazione ho fatto tutta quella zona. Valesi, Trinità d'Agurto, Santa Maria Covinas, Valle d'Oria, la Ciaccia, la Mobizza, Mutigioni, tutto, sino a Vignola arrivavo. È veramente brava gente, molto ospitali, capitano. Capo, noi a Santa Maria Covinas lì ci abbiamo parenti, ci abbiamo. Tutta la famiglia di mio padre è da quella parte lì. Tu cari è? Capa. Già li conosciuti là, cioè già li hai conosciuto gente di quella parte lì, là. Ma erano proprio di Santa Maria Colina, cioè che zona abitavano? Lì c'era lo zio di mio padre che abitava lì a qualcosa, proprio nel paese, all'entrata al paese, non so che via sia. Via Nazionale quella è, a destra o a sinistra? A destra, aspetta che te lo dico, il mio messaggio Carina, aspetta. Amici, ma cosa faceva? Io ce l'ho fatto un bel po' di anni lì, soprattutto Santa Maria Covina, se Valle d'Oria, un bel po', un bel po'. Sì, era il cugino di, cioè, lo zio era proprio, il fratello di nonno, che adesso è morto. Lavorava la petrochimica anni addietro. Un bel lì erano, lavoravano lì a Leniche, parecchi, la Santa Maria Covina da Valle d'Oria, due burma a tutti i dì, gappa gappa, e già va bene, e magari di vista li conosco, capito? Ci ho fatto un bel di anni lì, poi mi conoscevano tutti in paese perché io facevo il fontaniere allora, quindi mi conoscevano tutti. Capo, ti ho mandato un messaggio, capito? E adesso lo ascolto, aspetta. Istendo caro, non li vuoi di Giovanni, sì? No, era mio padre, era. E mio padre è nipote Giovanni, cioè quello che è morto. Ehi, la Giuditta, la Giuditta, la Giuditta. Il nipote Giovanni, sì, non mi davano così. Già l'ho conosciuto quell'uomo, già l'ho conosciuto. Abitava via Nazionale, non so se tu ce l'hai presente, dove c'è il Bar America, ce l'hai presente dove c'è il Bar America? Era lo sogno, era sempre in Chivi, era. Poi c'era Agostina, c'era, che era la nipote, che è quella che, cioè, ripartiva tutti quanti di cose in casa. La famiglia Stangoni lì. I cerotti, tutti i parenti. Eh sì, perché gli Stangoni sono di Sedini. Allora, dove c'è l'American Bar, praticamente vai appena avanti, c'è sempre la solita macelleria. In quell'angolo, quella casa che c'è proprio all'angolo della macelleria, lì abitava Giovanni. Quello lì era lo zio di mio padre, il fratello di mio nonno. Lui è una brava persona. E poi c'era quell'altro che è morto, Pietro, l'altro fratello. di principi era. Sì, perché abitano uno attaccato all'altro lì, quella via, in quell'angolo, sono due o tre case. Pietrino. Io Pietrino disse Doccaro tutta la vita in fea, ma è lasciando tutta la vita in fea, sempre uscita via. Ma se c'è l'acqua, ma cosa si dicendi? Cosa si dicendi? Oh, il figlio Lucaro! Cappa! Di campagna, lui lavorava in campagna, lavorava, è morto tanti anni, morto. Invece l'altro no, Giovanni no, era morto, lo zio era, mio padre, tutti gli zii, è morto molti anni dopo, è morto. Guarda, io quando li ho conosciuti tutti e due, ero appena arrivato da Perfuras, quindi ti sto parlando del... Allora io a Perfuras ho fatto 96, da 96 al 2000 e poi sono passato in quella zona lì, quindi li ho conosciuti. Poi in che anno siano morti non me lo ricordo, la verità, perché poi io mi sono spostato, sono andato verso Santa Teresa, sono stato al Tempio, però io lì in quegli anni, nel 2000 li ho conosciuti tutti e due vivi. Nel 96 erano vivi loro. Come c'erano vivi? Tu stavo dicendo, sono morti sicuramente dopo il 2000, saranno 15 anni fa sono morti. Adesso sono passati più di 20 anni, sono passati. No, invece Giovanni, lo zio Giovanni molto molto dopo. Sì, Giovanni sto dicendo, zio Pietrino era già morto quando sono arrivato io, ma Giovanni era ancora vivo, è morto dopo il 2000. Cappa, è molti molti anni prima. Purtroppo. E lì erano parenti. Anche, non so se li conosci, il corso di Castelsardo. Sono parenti nostri, sono quelli che vengono le bombole. A quelli che sono via Europa, via Europa. Cappa, con Flavio. Non è il cugino di babbo quello. Ti cugini in Gardura vai. Certo che li conosco, ma li conosco per lavoro, niente di che. Io lo so chi sono, dove hanno l'attività e tutto, perché ho lavorato anche a Castelsardo. Cappa, cosa Flavio Corso? Praticamente allora è il fratello di mia nonna, era il capito? Il fratello di mia nonna. Ehi, già ho capito. Conosciuti. Beh, in Castelsardo ci sono stato poco, però. Ero lì dove c'è il Bagabaga, il ristorante sopra, c'è il potabilizzatore sopra. E poi mi avevano trasferito a Sorso. Però ci sono stato poco, lì forse due. Neanche un anno, ma già mi muovevo nel paese, quindi già lo so chi sono. Insomma, tutti i bombolai erano, era. Allora, praticamente il padre di Flavio era il fratello di mia nonna, fra di Grosso, si dice lì. Capito? E allora era Castelsardo. Poi Castelsardo abbiamo avuto, c'era l'altro zio di mio padre e la sorella di mia nonna c'erano lì. L'altro fratello di mio nonno, decimo, non vuole via le bombole. E dove era quello? A Sassari però. Quello è morto tanti anni. Sì, ma l'attività delle bombole dove ce l'aveva? A Sassari. Cappa, a Sassari, dove era il rubabo di Gianfranco lo dà la sitta. Oh! Mi pare molto burroetto da poco. Ah, lo sai che ho sentito qualcosa? Mi sembra proprio di sì. Forse Cacchedù abitava in Santa delle Carbonate. Sì, sì, abitava qua vicino a me. Cappa, rubabu, chi c'era? Mi dà via le bombole di rubabu. Quello lì era il padre di Gianfranco e di chi si faceva il bassista e l'altro trabagliava la Derecom, lo dico a Didi mi pare. no, Gianmarco non ricordo perché lo vedevo qua in zona, e parcheggiava il taxi, e l'altro però no, non me lo ricordo. Capa, non avevamo parenti, uia. Parenti, uia, uia, Lugariello. Eppure il Bucciodorra. Ma tu lo sai cosa faceva mio padre? Già me l'avevi già detto, ma mi ha accennato. Ma proprio c'erano due officine e due negozi di autoricambi, di cui Mameli e Bugia, quelli di Portotore, Storie Bugia, autoricambitore, c'era dipendente di Babbo. Infatti ha seguito sempre quella cosa lì. Ma Babbo era direttore della Butangasa a Portotore. Cappa, allora già... E purtroppo è andata la mandata, già la sabbia che cosa. Infatti Martigas alla pietraia, se tu vai ad Alghero, Martigas alla pietraia, che è un negozio di camping, praticamente tutta roba sportiva, roba da pesca, c'hanno le bombole, Martigas, c'è un negozio di bombole, perché la licenza, quando era morto mio padre, l'aveva presa zio Salvatore, che si era già trasferito ad Alghero, capito? Il più grande. Ma la licenza l'aveva data lui, e quindi hanno continuato l'attività. Se tu vai ad Alghero, entri alla pietraia, c'è un negozio grande, rivendita di bombole, negozio, tra l'altro sono anche concessionari Piaggio, vendono anche moto, quello Martigas, quello è fratello di Babbo, capito? E vendono bombole lo stesso. Sì, lo so perché l'ho visto, ci sono anche passato lì ad Alghero, l'ho visto, come l'ho visto qua. Quando è che sono passato? Un anno fa, che sono sceso a prendermi la custodia del mixer lì in via Lofraso, dovevo andare. Sì, ma se poi lo dici a Pierpaolo già riconosce Emilio, non c'è problema. Capito che noi eravamo tutti piccoli quando è morto Babbo, e quindi mamma si è trovata con queste attività e gli ha dato. La licenza l'ha passata a mio zio, il fratello di Babbo, il più grande, e hanno continuato, adesso loro sono morti tutti, mancuno ne è rimasto. E Babbo era il primo, Babbo ci aveva 33 anni quando è morto. Un'operazione al... un calcolo della Cistifeller, non si sono accorti che era diabetico, è morto sotto i feti, capite? C'era il diabete, non se ne sono accorti, allora nel 1960 Antonio non era uscito facile, comunque lui era il più piccolo di tutti, come me, io avevo 3 mesi infatti, quando è morto Babbo io non l'ho conosciuto a mio padre. Mi raccontano, cioè, mi ha raccontato mamma, foto eccetera, però sapevo su tutto quella sua vita. E vabbè, mi è andata male, oddio, male, mamma già sta bene, grazie a Dio, non ha problemi di niente. Però le attività che c'erano erano tutti piccole, nessuno poteva portarle avanti, quindi l'attività delle bombole l'ha data a mio zio, al fratello di Babbo. I due negozi inizialmente le gestiva Torre Bugia, infatti quando vado al signor Torre non ha più mai pagato nulla a Torre Cambi Torre, e adesso quando vado a Zeta Ricambi la matta si grossa. La dipendente di Babbo ha gestito tutto lui per un certo periodo e poi ha venduto tutto. Capo, un peccato, cavolo, un peccato perché se la fate grandi voi, cioè vera di voi, quello della baglio già in chivi. Lo so, Anto, se la fortuna non ha girato, voi avete voi, eravamo tutti piccoli, poi due maschi, io c'ho un anno di differenza da mio fratello, perciò eravamo piccoli, capite? Eravamo piccoli, e vabbè, pazienza, nel senso se l'avevo vedo avrei vissuto meglio, di come ho vissuto, nel senso che grazie a Dio non mi è mancato mai niente, non mi manca niente, ma me l'ha già travagliato, invece in quella maniera potevo fare molto di più. Infatti tutte le volte che vado a prendere niente vado a trovare la signor Torre, sempre, infatti mi chiama col nome di Babbo, non mi chiama col nome mio Claudio, mi chiama Pasqualino perché Babbo si chiama Pasqualino, Pasquale Agostino, mi chiamava Pasquali. Cappa, lo sai che fanno una marca prestigiosa di casse molto potenti, di concerti, di cose, con quel cognome lì? Col mio? Eia, vai su internet e guardale. Sono molto prestigiose come cose, eh. Questo è un montone di là. Aspetta, allora adesso vado a vedere. Sì, vai metti Marti Audio a vedere. Oh, Marti Audio, non può capire. Marti Audio. So per voi. Siamo diversi apparenti. Noi siamo pochi, perlomeno. A Sassari ci sono solo io. A Porto Torres c'è solo mio fratello. Una sorella abita a Stintino. Ok, e gli altri sono tutti ad Alghero. C'ho tre sorelle ad Alghero io. Tre sorelle, tutti fratelli di babbo, di mamma, tutti Alghero sono. Cappa, è roba da concerti, anche fanno anche roba di cacciative, ma per comprare chi si vivo l'Ulising, vivo un botto, ci vuole, un bel po' di soldi. Ma quando giovani, uia, ti trema la piazza, Non so per quanto, la prima cosa che sento. Cappa, è roba molto prestigiosa, Chi ha quelle. Come avere un keyboard di radio adesso, cioè un qualcosa di più. Vabbè, io mi ricordo Marantz, quelle sono buone lo stesso. E non ha niente a che vedere con quella roba lì, fregata. Quella roba di alta qualità, sono materiali, roba mondiale, cioè roba proprio. Cioè, veramente roba seria. Cappa. E già chiedo a Stefano, ma le chiedo, è preparato in materia. Tu chiediglielo a vedere cos'è quel marchio. E prova a chiedergliela. Prova a chiedergliela. Tanto già ci vediamo, sempre il fine settimana. Ci vediamo, oddio, ci sentiamo ogni tanto. Fine settimana, quando è libero, anche lui è sempre incasinato al lavoro. Provo a chiederglielo a vedere. Cappa, sono, lo usano molti servizi, li usano quelli che fanno concertone, perché sono veramente sono eccezionali, sono. No, non sapevo, ero rimasto alle solite cose. Infatti sto guardando qua, roba d'alto livello. Cappa, ha fatto tipo cosa adesso, quegli impianti lì usano tuttora a fare concerti di Ligabue, Vasco Rossi, di Aghizzi di Velle, cantanti di alto rank, cioè sono impianti grandi, belli. Ma ci picchio, bene a sapersi, allora non c'è un nome, una garanzia, come Magna Bosco. Cappa, è famosa, E vabbè, famoso il cognome, ma io non so che famoso, ma... Cappa, Lugariello! Ora non so se il costruttore Bucchi è... Forse dovrebbe essere... Forse inglese, non lo so. Ora si pure che sia inglese, se non napoletano. Ma di che razza siete alla fin fine? Inglese, cioè, di dove siete? No, non è napoletano. Il padre di mio padre è napoletano. Pasqualino Gicillo. Però bisogna vedere le origini, cioè più là bisogna vedere, bis di indietro. Napoletano, Napoli. Voglio un uomo. Infatti mio nonno si chiamava Cicillo. Cappa. Napoletane, sbagliato di Bonivetti, ti sono già futtendo di ciò. E sono da dormire di butti. Ah, sì, grande DNA, vedate. Ah, no. KK. I sciocci di mio fratello sono coetanei, sono quelli delle stufe, al comfort, alle line, alle poco un nome. Di tutto bene. Un dinari. A Porto Torres. Che ha fatto? No, non mi viene a bagasso. Stava mai vista la pubblicità, Antena 1, quello delle stufe, da pellet. Quindi sono. Sono ne abbia pannone a bancari. Ciucciu, c'hanno l'ufficio a Porto Torres. Fanno condizionatori, fotovoltaico, di tutto vate. Forse ho mezzo capito, ma sai che io poi che a televisione guardo poco, però ho capito chi sono. Ehi, quello che ho visto che fanno le stufi a pellet, stavano vendendo il burro della Mazzi, anche materassi stavano vendendo, di tutto bene. Fra poco ci vendono il burro a Vigliola. Lui, lascia perdere. No, è brava gente, ma io non... Ciao, vabbè, poi c'ho poca confidenza, anche perché non è che ci siano molti a Porto Torres, eh. Abitano, quelle villette sono in via Balai, quelle villette a schiera in via Balai, lì abita la figlia di mio fratello, che è sposata con Luigi, Arena si chiamano di cognome, Arena, con Luigi e il padre e la madre, Luigi abitano a fianco, sono una bifamiliare, capito? Gabba, tu hai prodotto un po' più manne, vai tu. Più grande di me, hai giudito di un anno. E poi tu sei il bimbo minore. Poi c'è tua sorella e poi ci sei tu. Cinque siamo, tu, tre donne e due maschi, io sono l'ultimo. L'ultimo, io c'ho una sorella che ha 72 anni, mia mamma ha 90 anni. E mamma c'ha 90 anni. Mamma c'ha 90 anni, capito? Caspita, io la mantengo. C'è la sorella, c'ha più 70 anni. La più grande di tutti c'ha 70 anni. Sposata con il maresciallo di Vigio Urbano a Porto Torres. Quella, ed è l'unica donna a Porto Torres. Sì, adesso me lo guardo, adesso arrivo, altro me lo guardo. Gli altri due sono Alghero, una ne ha 67 e l'altra ne ha 65. Siamo tutti a ruota siamo. 70 o 71, se non ricordo se ne ha 71 o 72. La più grande, la seconda ne ha 67, la terza ne ha 65, mio fratello ne ha 62 e io ne ho 61. Capo, tutti a scalare gente. Ah beh, è meno male, no? Le volete andare d'accordo e trovarsi ogni tanto, poi... Che ci stia tutti bene. No, non c'è un problema. Io ho detto che non si può andare più a lungo, se no io tutti i sabato e domenica ero a Porto Torres. Poi restavo magari un sabato e domenica ad Alghero da mia sorella, poi me ne andavo a Tettino dall'altra mia sorella. Cioè, stanno tutti bene, grazie a Dio. Però adesso non si può fare più un cazzo, Antonio, ti dico. Va bene, vai, vado a vedermi che c'è un film di Salvia Ferilli, molto bello, veramente molto bello, vado a vedermelo. Ti saluto, grazie delle due chiacchiere, saluto anche a Luca, saluto a Valtu se non c'è, e tutti quelli che sono in ascolto. Ciao ciao! Ehi capa, ciao ca! Ciao anche te Luca, se ci sei, io biglio e mi ti gioco, non c'è più gara. E a tu, dai, ciao, ci sentiamo domani. Ciao.